Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti da Trader, ritrovati con Balloon, la vostra mezz'ora di storia, in onda ogni sabato dalle 14 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko e in formato podcast tutte le settimane sul nostro sito www.radiovalloon.info. Nella puntata di oggi vi proporremo un incontro fra quelle che sono due delle specialità del nostro fare storia. Andremo ad analizzare un anniversario piuttosto importante, diciamo, come quello del 16 marzo del 1978, data dell'inizio del sequestro Moro, utilizzando però come grimaldello, per entrare all'interno di questa storia, la letteratura, un genere che ci piace, un linguaggio che ci piace molto bazzicare. Naturalmente non poteva essere altrimenti nella scelta dell'argomento di questa puntata, perché come avete potuto vedere è dall'inizio dell'anno grosso modo che già sulla stampa si sta ricordando questo importante anniversario, l'anniversario dell'inizio dei 55 giorni del più importante sequestro della storia d'Italia, che vide in quel 16 marzo scontrarsi da un lato la geometrica potenza di fuoco delle Brigate Rosse, come le definì allora sulla rivista Metropoli Franco Piperno, uno dei leader dell'autonomia operaia romana, contro la scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Un attacco che portò alla morte di 5 membri delle forze dell'ordine e diede per l'appunto il via, come vi dicevo, a questo importantissimo sequestro, che ha lasciato una traccia molto importante nella storia del nostro paese. Non dimentichiamo che la data della morte di Aldo Moro, il 9 maggio, è poi entrata come data della giornata della memoria per le vittime del terrorismo in Italia. Per parlare di questa data abbiamo scelto per l'appunto come grimaldello quello della letteratura e siamo andati a ripescare un libro che è uscito nel 2008, ma che a nostro giudizio è stato piuttosto seminale. Perché è seminale? Perché da quel momento in poi al rapporto fra letteratura, lotta armata e terrorismo sono stati dedicati diversi studi, alcuni più interessanti, altri meno. Comunque ve ne daremo conto sulla pagina del nostro sito radiovalloon.info, assieme al podcast della puntata troverete tutti i link di approfondimento. Il libro che invece siamo andati a recuperare è un altro, quello che ha dato un po' il via a questo tipo di studi, che si intitola Una tragedia negata, gli anni di piombo nella narrativa italiana, edito da Il Maestrale realizzato dallo scrittore Demetrio Paulin, che avremo fra poco ai nostri microfoni. Partendo dall'Affair Moro, il pamphlet saggio di Leonardo Sciascia, scritto quasi in contemporanea con quello che stava avvenendo, fino a Corpo di Stato di Marco Baliani e ad altri romanzi, in particolare pensiamo a quelli scritti dagli ex militanti delle Brigate Rosse, l'agguato di Via Fani e poi il sequestro Moro e la sua morte sembrano essere diventati quasi un vero e proprio topos letterario, cioè un qualcosa che ritorna. Vedremo in che maniera ritorna, in che maniera viene raccontata dalla nostra narrativa. Fatto sta che sono un elemento che esistono. Prima di iniziare la nostra chiacchierata al telefono con Demetrio Paulin, l'autore di Una tragedia negata, vi presentiamo il disco di oggi. È un album, dobbiamo confessarlo, che vi abbiamo già suonato in passato, ma che non poteva che ritornare in questa puntata. È un disco del 1996 che si intitola Bader Meinhof, del musicista Luke Haynes, che si è presentato poi anche con il nome di Bader Meinhof. Un bel disco che racconta le vicende della RAF tedesca, ma ci è sembrato utile per raccontare anche questa storia. Yellow. Diamo il benvenuto a Demetrio Paulin, scrittore che abbiamo contattato per parlarci di Una tragedia negata, un suo libro del 2008 dedicato proprio all'immagine degli anni della lotta armata e del terrorismo italiani nella nostra narrativa. Buongiorno Demetrio, intanto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, iniziamo con una domanda, diciamo, generale. In che maniera la vicenda di Aldo Moro e dell'agguato di Via Fani sono state recepite dalla letteratura italiana? E quali sono state le opere che hanno affrontato questa tematica di cui tu ti sei occupato? Allora, ovviamente Aldo Moro, la sua vicenda, è stata una delle vicende centrali della nostra storia, e la letteratura, sia negli anni immediatamente successivi al fatto o anche negli anni nei mesi successivi al rapimento Moro, e sia nei decenni dopo, hanno guardato a quel momento come, come posso dirvi, come un momento di specchio in cui l'Italia, noi stessi, siamo rispecchiati. Possiamo andare da Sciascia, Raffaele Moro, che forse è uno dei testi che, pur essendo stati scritti direttamente in quel periodo, perché Raffaele Moro venne scritto proprio nei mesi successivi, rimane secondo me uno dei momenti più lucidi della descrizione di quello che è stato il rapimento Moro. Possiamo pensare a Baliani con Il corpo di Stato, che è un'opera teatrale che poi mi sembra Bompiani rete anche come libro. O penso a un romanzo non molto riuscito di Spinato che si chiama Amici nemici, in cui la vicenda è proprio quella di Aldo Moro raccontata tramite lo sguardo del terrorista, ma anche tramite la riscrittura, ad esempio, delle lettere di Moro ai familiari. Sono tutti modi diversi, il teatro, il reportage narrativo di Sciascia o il romanzo di Spinato, di raccontarci qualcosa che ci sfugge, nel senso in Moro, nella sua vicenda, è chiusa anche un po' il segreto della nostra storia, di quello che è avvenuto anche dopo il compromesso storico, per dirne una, fino ad arrivare, se vogliamo, anche a Tangentopoli, a quello che è successo dopo. E noi non riusciamo ancora adesso, a distanza di 40 anni, a comprendere la portata. Perché? Perché la letteratura, da un certo punto, cerca di produrre delle immaginazioni, e spesso e volentieri queste immaginazioni su Aldo Moro finiscono per essere fallimentari. Cerco di spiegarmi meglio. Spesso e volentieri ci si concentra molto su quello che pensavano i terroristi e si dimenticava, ad esempio, di fare un'ipotesi narrativa su Moro, di rendere Moro un personaggio, come se Moro fosse intoccabile in quanto vittima, e allora lo si tratta in maniera da feticcio, come personaggio a due dimensioni. L'unico che non fa questo, per dire, è proprio Sciascia, che spesso e volentieri mette nella Fermoro mette dei ragionamenti al personaggio Moro che noi non sappiamo se sono veri o falsi, sono prodotti proprio della mente della mente lucida e razionale dell'autore. Ecco, questa cosa ci è mancata, questa lucidità ci è mancata, e molti dei testi su Moro appunto sono testi in cui si indaga molto più sulla psicologia del terrorista che non sulla psicologia di colui che è carcerato. In questo modo tutte le narrazioni, come tu vedi, sono monche, perché manca una parte. Sì, oppure mi verrebbe da dire anche sono anche narrazioni abbastanza edulcorate, fra virgolette. Cioè, nel tuo libro fai riferimento a Buongiorno Notte di Giordana, che per quanto possa essere a mio giudizio, sia chiaro, un pregevole prodotto, tende a costruire una dimensione molto ingenua al di là della conclusione, proprio nella rappresentazione di tanto della vittima, di Aldo Moro in questo caso, quanto dei suoi sequestratori, in questo caso i militanti delle Brigate Rosse. Questo è vero, cioè nel senso che il problema è che a un certo punto si preferisce lavorare per semplificazioni, e semplificando i personaggi diventano bidimensionali. La terrorista che si occupa di Aldo Moro che alla fine c'è questo sogno di liberazione, no? Di questo uomo che cammina scalzo, sono quasi un modo per nasconderci la verità, no? È come se si mettessero dei fiori intorno alle catene, no? Come se si infiorasse qualcosa per non farci vedere cosa c'è veramente sotto. Ecco, secondo me, per quello che io penso sia la letteratura è l'esatto opposto, è non essere consolante, è produrre qualcosa che ci disturba, produrre qualcosa che ci mette a disagio. Ecco, nelle letture di quegli anni in cui mi sono occupato in maniera specifica di questi testi, io non uscivo turbato da quella lettura, ne uscivo infastidito, come tutte le volte sentivo, ecco, abbiamo perso un'occasione per provare a dire qualcosa di più, perché la storia, il giornalismo, il reportage possono dirci delle cose su quel periodo, possono fornirci informazioni, ma alla fine c'è un momento in cui tutto questo deve essere ricapitolato, e l'unica arte che può ricapitolare tutto, ad esempio, è la letteratura, è la finzione, è l'immaginario. Allora, mettiamo un attimo in pausa Demetrio Paulin, ci ascoltiamo una canzone. Il disco che ci stiamo ascoltando è di Luke Hines e Bader Meinhof. siete sempre in onda con Balloon e stiamo chiacchierando con Demetrio Paolin a proposito di un suo libro del 2008 che abbiamo chiesto di andare a ripescare, che è Una tragedia negata, gli anni di piombo nella narrativa italiana. Allora Demetrio, il libro è del 2008 e da lì in poi la tematica è continuato a essere di grande interesse per il pubblico, sviluppandosi, diciamo, anche quasi una sorta di filone. In questo senso poi mi viene da pensare anche a diversi romanzi e testi scritti da ex militanti delle Brigate Rosse. Ma oltre questo, quali sono, a partire dal 2008, dei cambiamenti che ci sono stati nella maniera con cui la narrativa ha affrontato la tematica degli anni 70 e del sequestro Moro in particolare? Allora, sicuramente c'è da dire che nel periodo in cui io scrivevo il mio saggio, Giorgio Vasta pubblicava Il Tempo Materiale, che non entra nel mio libro proprio perché praticamente l'abbiamo pubblicato quasi uno dietro l'altro e quindi non ho potuto aggiungerlo. Ad esempio il testo di Vasta è uno dei punti di rottura del racconto. Sicuramente è un romanzo che, rispetto a quelli che io analizzavo in quel periodo in Una tragedia negata, segna un salto decisamente in avanti, sia per costruzione, sia per linguaggio, sia per inventiva. C'è da dire che, ad esempio, una tragedia negata puntava anche il dito sul fatto che mancasse una narrazione della vittima. Nel tempo, negli ultimi anni, in quegli anni subito dopo la pubblicazione del mio saggio, invece un genere che è andato molto di moda, oltre alle memorie degli ex terroristi, sono stati i libri interviste, i libri memoria dei familiari delle vittime. In realtà entrambe queste due narrazioni, per dirti, hanno lo stesso problema, sono agiografiche rispetto alla parte che raccontano, cioè tendono in un certo senso a ricostruire soltanto il personaggio di cui si occupano, e la narrativa non è questo. La narrativa è mettere insieme antagonista e protagonista, farli cozzare uno contro l'altro, renderli credibili. Questo lo fa Giorgio molto bene. Ci sono ovviamente altri libri negli anni di cui mi sono occupato in maniera, diciamo, meno scientifica, meno critica, di studio rispetto a quegli anni in cui scrivevo Una tragedia negata. Mi viene in mente ad esempio La scuola cattolica, che ha vinto lo Strega nel 2016, che è un testo importantissimo perché riesce a raccontare finalmente gli anni 70 da una prospettiva e in un modo diverso, perché non è né dalla parte delle vittime né dalla parte dei terroristi, ma è un io che si è sciolto nel movimento, che guarda al movimento di quegli anni. Mi viene in mente ad esempio il libro di Nadia Terranova, molto bello, che dà uno sguardo diverso, se vuoi femminile, non nel senso negativo del termine, nel senso di rosa, ma nel senso che pone lo sguardo da parte di un modo di vedere gli anni 70 anche come cambiamento fisico, cambiamento del corpo. Oppure ci sono altre esperienze. Mi viene in mente l'ultimo libro di Crocifisso Dentello, che pur essendo interessante come libro in sé, la parte in cui tende a ricostruire gli anni 70 è un po' una parte sovrapposta, come se fosse il fondale di un teatro, ok? Quindi non proprio completamente approfondita. Quindi c'è ancora molto da fare, secondo me. Gli anni 70 rimangono un momento in cui, per qualche motivo, non riusciamo a entrarci dentro con profondità, con adeguata lingua e adeguata immaginazione. Bene, ringraziamo ancora Demetrio Paolin, autore di Una tragedia negata, gli anni di piombo nella narrativa italiana, edito dal Mestrale nel 2008, che ci ha raccontato il sequestro Moro in questo 40° anniversario dal punto di vista della letteratura. Aggiungiamo giusto due cose per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Demetrio, in coda all'intervista, ci ha citato tre libri di cui non troverete traccia nel suo testo del 2008, essendo usciti successivamente alla pubblicazione del libro, che sono Giorgio Vasta, Il tempo materiale, edito da Minimum Fax nel 2008, libro che vi consigliamo calorosamente per quanto piuttosto complesso, ma un libro su cui vale la pena confrontarsi. Nadia Terranova, Gli anni al contrario, edito da Einaudi nel 2015, e il più recente di tutti, di Crocifisso Dentello, La vita sconosciuta, edito dalla Nave di Teseo nel 2017. Per oggi è tutto, troverete tutti gli approfondimenti di questa puntata sulla nostra, sul nostro sito internet, assieme al podcast della puntata. Vi suggeriamo come lettura un altro articolo uscito abbastanza di recente, uno dei più recenti, che è uscito ad agosto del 2017 come ripubblicazione, ed è di Vanessa Roghi, un'autrice storica che abbiamo ospitato in trasmissione, che si intitola Aldo Moro e una certa letteratura. Bene, per oggi è decisamente tutto, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata a tutte e tutti e un sereno fine settimana da Frey. Ciao! God's love, it's not